rivendica, trascina i suoi seguaci sul marciapiede, in agguato, sempre a gufare, cicatrici da scorticare. L'anima divora polvere scalfita, perfida spirale in apnea, sempre il suo cuore. Da sputi su valsa a quattro tempi, perfida melopea moribonda tra moribondi, balla su cadaveri, nefasta festa sforgia, succhia sangue e si nutre, senza padre, senza madre. Sembra santa, muta di nero vestita, nel corpo brucia la fiamma di chi scrive di sua macabra penna. Ama assenze cannibali, schiava di schiavi succubi, non ha volto né una faccia, succhia sino all'ultima goccia. Perversa in tutti i suoi versi, paziente vendetta da farsi, si mostra sotto candide vesti, di sangue i suoi sogni nefasti, bambina dalle unghie di acciaio, figlia di chi ha ucciso ogni figlio, perversa nelle banche della morte, nel silenzio perfida consorte.